A 3 giorni dal 25 aprile vogliamo ovviamente come ogni anno ricordare tutte le donne che si sono battute per la resistenza antifascista, una resistenza troppe volte taciuta, troppe volte non ricordata, e lo vogliamo fare con le parole di Giovanna Marturaro, una partigiana che ci ha lasciato l'anno scorso all'età di 101 anni. Lei inizia la sua attività antifascista veramente molto molto giovane, la sua prima schedatura come sovversiva risale al 1938, per la quale scontò un mese di carcere per propaganda antifascista, ma lei ha continuato a lottare fino all'ultimo, anche finita la guerra, e negli ultimi anni è girato molto, soprattutto in questi ultimi 2 anni, un documentario che parlava di lei, che raccontava la sua vita, che si intitola Bimba col pugno chiuso, e noi vi vorremmo far sentire un piccolo stralcio di questo documentario, un riassunto della sua vita, di questa donna straordinaria che purtroppo lo scorso anno ci ha lasciato e che noi salutiamo veramente con affetto. Io vengo da una famiglia sarda, e però sono stranamente l'unica figlia nata a Roma. Sono nata a Roma nel 1912, 27 marzo 1912. Mio fratello un giorno è andato vicino a Milano a impiantare una tipografia clandestina. C'è stata una spiata o che altro, insomma sono andati sul luogo, l'hanno trovato che stampava. E poi vennero la mattina presto, verso le 2, a casa a fare una perquisizione. Trovarono la traduzione dal francese di un libro prodotto intitolato Fascisme e Rivoluzione. Allora cominciarono a indagare chi aveva fatto la traduzione. La traduzione facevamo in 3, mio fratello, mia sorella ed io. La scrittura di mia sorella somigliava a quella di mio fratello, la mia no. Quando mi presentarono il libro è questo, boh, non lo so. E allora presero un quaderno, appunti di chimica, Giovanna Marturaro, punta di chimica, e questo in galera. Mentre mi portavano in galera in taxi, perché io sono andata in taxi in galera con dunque un carabiniere e 2 agenti, sì, 3 persone pericolosa, passarono per la carcere minori di lei e si fermarono e mi disse: scusate, quanti anni avete? Dice: abbastanza per andare in galera. Dice: andiamo, capito? E perciò questa cosa, sai, l'arresto di mio fratello fu il più tremendo, poi quello di mia madre, era la mamma, eccetera, e ci colpì molto. Quello di mio fratello era scontato perché sapevamo che faceva qualcosa, ma questo era l'arresto mio, non me ne fregava niente. We'll be right back. Io ho una certa età. Ogni tanto me la sento, ogni tanto mi pare di non mi sembra vero. Ma per quanto poca forza abbia, io sono decisa a continuare a lottare ancora. E una delle cose più importanti che posso fare è portare la mia testimonianza, perché ormai siamo pochi a poter portare una testimonianza di persona delle lotte che abbiamo fatto, dell'atmosfera che si è creata in quel periodo, di cose hanno fatto le donne soprattutto. E io conto di continuare a fare questa lotta fin quando ne avrò la forza. Testimonianza molto forte questa di Giovanna Marturano. Io vi invito a guardare il documentario, si chiama Bimba col pugno chiuso, lo trovate su produzionidalbasso.com. non so se è ancora disponibile gratuitamente, se è già disponibile gratuitamente o se bisogna acquistarlo, però penso insomma il prezzo sia abbastanza basso.